proposito di dreyfusisti, intervenni, pare che anche il principe Fon lo sia. Ah, avete fatto bene a nominarlo, esclamò il signor di Garmont. A momenti dimenticavo che mi ha chiesto di venire a pranzo lunedì. Ma che sia dreyfusista o no mi lascia del tutto indifferente. È straniero lui. Della sua opinione me ne infischio solennemente. Per un francese è un'altra cosa. D'accordo, Swan è ebreo. Ma fino a oggi, vi chiedo scusa, Faubourville, avevo avuto la debolezza di credere che un ebreo potesse essere francese, voglio dire un ebreo onorato, un uomo di mondo. Ora, Swan lo era nel senso più pieno del termine. Ebbene, mi costringe ad ammettere che mi sono sbagliato. Visto che prende partito per quel Dreyfus, il quale, colpevole o no, non appartiene neanche un po' al suo ambiente, mai e poi mai gli sarebbe capitato di incontrarlo. Contro una società che l'aveva adottato, trattandolo come uno dei suoi. Non c'è che dire. Eravamo tutti pronti a garantire per Swan. Sul suo patriottismo avrei giurato come sul mio. E lui ci ricompensa così. Personalmente, lo confesso, non me lo sarei mai aspettato. Me ne ero fatto un giudizio più lusinghiero. Aveva dello spirito, nel suo genere, si capisce. Sì, lo so, aveva già commesso una follia con quel vergognoso matrimonio. Ecco, sapete chi ha sofferto terribilmente per il matrimonio di Swan? Mia moglie. Molte volte Oyan ha, come dire, un'affettazione di insensibilità, ma nel fondo sente con un'intensità straordinaria. Deliziata da questa analisi del suo carattere, Madame de Gaumont ascoltava il marito con un'espressione di profonda modestia, senza dire nulla, preoccupata di aderire all'elogio e soprattutto timorosa di interromperlo. Se, poniamo, il signor di Gaumont avesse parlato per un'ora del medesimo argomento, lei se ne sarebbe stata ferma, concentrata nell'ascolto, nemmeno si trattasse di musica. Ebbene, ricordo che quando ha saputo del matrimonio di Swan è rimasta sconvolta. Le è sembrato brutto da parte di una persona che da noi aveva ricevuto tante prove d'amicizia. Voleva molto bene a Swan. È stato un grosso dispiacere. Non è vero, Orion? Madame de Gaumont ritenne di dover rispondere a una domanda così diretta su un dato di fatto che le avrebbe consentito, senza averne l'aria, di confermare delle lodi che avvertiva in via d'esaurimento. Con un fare timido e semplice e un'espressione tanto più studiata in quanto voleva apparire sentita, disse, dolcemente riservata: «È vero, Bazin non si inganna. Eppure non era la stessa cosa. Che volete? L'amore è l'amore, anche se a mio avviso non deve superare certi limiti. Ancora ancora perdonerei un ragazzino, un moccioso, che si lasciasse trascinare da certe utopie. Ma Swan, un uomo intelligente, di comprovata delicatezza, un fine intenditore di quadri, un intimo del duca di Chartres, dello stesso Gilbert». Il tono con cui il signor di Garmont andava dicendo queste cose era peraltro estremamente simpatico. Non recava alcuna traccia della volgarità alla quale troppo spesso indulgeva. Parlava con una tristezza lievemente indignata, ma tutto in lui spirava quella dolce gravità in cui consiste il fascino largo e untuoso di certi personaggi di Rembrandt. Il borgomastro Six, per esempio. Si sentiva che per il duca la questione, se l'atteggiamento di Swan riguardo all'affare fosse immorale, non si poneva nemmeno, tanto ciò gli pareva indubitabile. L'afflizione che ne provava era quella d'un padre che vede un proprio figlio, per la cui educazione ha fatto tanti sacrifici, rovinare volontariamente la magnifica posizione che gli ha costruita, disonorando un nome rispettato con sventatezze che i principi e i pregiudizi della famiglia non possono tollerare. È vero che a suo tempo il signor di Gaumont non aveva manifestato uno stupore altrettanto profondo e doloroso nello scoprire il dreyfusismo di Saint-Loup, ma innanzitutto egli considerava suo nipote come un giovane incamminatosi su una brutta strada e dal quale, finché non si fosse emendato, ci si poteva aspettare qualsiasi cosa. Mentre Swan era quel che il duca definiva un uomo assennato, un uomo con una posizione di prim'ordine. Inoltre, soprattutto, era passato un periodo di tempo abbastanza lungo durante il quale, se da un punto di vista storico era sembrato che gli avvenimenti giustificassero in parte la tesi dreyfusista, l'opposizione anti-dreyfusista aveva raddoppiato il proprio impeto e da puramente politica, che era dapprima, era diventata sociale. Era ormai questione di militarismo, di patriottismo, e le ondate di collera sollevate nella società avevano fatto in tempo a caricarsi di quella violenza che non hanno mai all'inizio di una tempesta. «Capite», riprese il signor di Germont, «anche dal punto di vista dei suoi beneamati ebrei, dato che tiene tanto a sostenerli, Swan ha commesso un errore di portata incalcolabile. Così fornisce la prova che esiste una combutta segreta fra tutti loro e che ciascuno è in qualche modo costretto ad appoggiare chiunque altro della sua stessa razza, anche se non lo conosce. È un pericolo pubblico. Evidentemente siamo stati troppo tolleranti. E la gaffe di Swan desterà tanto più clamore in quanto egli era stimato, persino ricevuto, era, si può dire, l'unico ebreo conosciuto nel nostro ambiente. Sarà facile sentenziare ab uno disce omnes. E la soddisfazione per aver scovato al momento giusto nella sua memoria una citazione così pertinente rischiarò d'un sorriso d'orgoglio la malinconia del gran signore tradito. Avevo una gran voglia di sapere cosa fosse successo esattamente fra il principe e Swan e di vedere quest'ultimo se ancora non aveva lasciato il ricevimento. «Vi dirò», mi rispose la duchessa, con la quale non avevo fatto mistero di tale desiderio, «che io non ci tengo particolarmente a vederlo, perché, da quanto mi è stato riferito poco fa in casa di Madame de Saint-Hubert, sembra che prima di morire vorrebbe farmi conoscere sua moglie e sua figlia. Dio mio, mi dispiace infinitamente che sia malato, ma tanto per cominciare spero che non sia proprio gravissimo. E poi, insomma, non è una buona ragione. Sarebbe davvero troppo facile. Uno scrittore senza talento, basterebbe che dicesse «Votate per me all'Académie, perché mia moglie sta per morire e voglio darle quest'ultima gioia». Non ci sarebbero più salotti se si fosse costretti a fare la conoscenza di tutti i moribondi. Il mio cocchiere potrebbe pretendere «Mia figlia sta male, fate in modo che la principessa di Parma mi riceva». Adoro Charles e mi addolorerebbe dirgli di no. Così preferisco evitare che me lo chieda. Spero con tutto il cuore che non sia in fin di vita, come dice lui, ma francamente, se dovesse essere così, non sarebbe proprio questo il momento per me di conoscere quelle due creature che m'hanno privato per 15 anni del più simpatico dei miei amici e che mi resterebbero appiccicate quando non potrei nemmeno più approfittarne per vederlo, dato che sarebbe morto. Ma il signor di Brouté non aveva ancora smesso di ruminare la smentita inflittagli dal colonnello de Frobeauville. «Non metto in dubbio l'esattezza della vostra versione, caro amico», gli disse, «ma anche la mia veniva da una buona fonte. È stato il principe di La Tour d'Auvergne a riferirmi l'episodio. Mi meraviglio che una persona della vostra cultura dica ancora il principe della Tour d'Auvergne», lo interruppe il duca di Gaumont. «Sapete benissimo che lo è quanto voi o me. C'è un solo membro ormai di quella famiglia, dello zio di Orient, il duca di Bouillon». «Il fratello di Madame de Villeparisis?» mi informai, ricordando che la marchesa era nata Mademoiselle de Bouillon. «Esattamente. Orient, Madame de Lambrezac vi sta salutando». E in effetti si vedeva ogni tanto spuntare e passare come una stella filante sulle labbra della duchessa di Lambrezac, rivolto a qualche persona da lei riconosciuta, un debole sorriso. Ma anziché precisarsi in un'affermazione attiva, in un linguaggio muto ma chiaro, esso si sfocava quasi subito in una sorta d'estasi ideale che non distingueva nulla, mentre la testa si inclinava in un gesto di benedizione beata, simile a quello che rivolge alla folla delle comunicande un prelato un po' rimbecillito. Madame de Lambrezac non era affatto tale. Ma conoscevo già quel genere di distinzione, inconfondibile e antiquato. A Combray come a Parigi, tutte le amiche della nonna avevano l'abitudine di salutare, in una riunione mondana, con la stessa aria serafica che avrebbero assunta scorgendo qualche conoscente in chiesa, al momento dell'elevazione o durante un funerale, e lanciandogli un fievole buongiorno destinato a smorzarsi in preghiera. Una frase del signor di Garmont sopraggiunse a completare l'accostamento che mi si era affacciato alla mente. «Ma voi l'avete visto, il duca di Bouillon?» mi disse. «Usciva questo pomeriggio dalla mia biblioteca mentre voi ci entravate, un signore piccolo di statura, tutto bianco». Era quello che avevo preso per un piccolo borghese di Combray e del quale adesso, a rifletterci, coglievo la somiglianza con Madame de Villeparisis. L'analogia fra gli evanescenti saluti della duchessa di Lambrezac e quelli delle amiche della nonna aveva cominciato a interessarmi, mostrandomi che negli ambienti angusti e chiusi, appartengono alla piccola borghesia o alla grande nobiltà, le vecchie maniere persistono e ci consentono così, come un archeologo, di ricostruire quale potesse essere l'educazione e la parte d'anima che essa riflette, ai tempi del visconte d'Arlincourt e di Louisa Puget. Meglio, l'assoluta conformità esteriore fra il duca di Bouillon e un piccolo borghese di Combray della sua stessa età mi ricordava adesso qualcosa che m'aveva profondamente colpito quando avevo visto il nonno materno di Saint-Loup, il duca di Rochefoucauld, in un daguerrotipo dove appariva somigliantissimo nell'abbigliamento, nell'espressione, nell'atteggiamento al mio prozio. Vale a dire che le differenze sociali, se non addirittura quelle individuali, si stemperano a distanza nell'uniformità di un'epoca. La verità è che la somiglianza del vestire, nonché quanto si riverbera sui volti dello spirito dell'epoca, occupano in una persona un posto a tal punto più rilevante della casta, la quale ha sì il suo valore, ma solo nell'amor proprio dell'interessato e nell'immaginazione degli altri, che non è affatto necessario percorrere le gallerie del Louvre per rendersi conto di come un gran signore dei tempi di Luigi Filippo differisse da un borghese dei tempi di Luigi Filippo, molto meno che da un gran signore dei tempi di Luigi XV.